Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. «Eccoli, eccoli, fai presto!» gridò Ario, stringendo il martello e saltellando per l'impazienza. «Arrivano, sono in porto! Sbrigati!» Arrampicato a metà dell'asta, Berto scuoteva rapido la sagola per disbrogliare e dare al vento la bandiera. «Bravo!» applaudì Ario, non appena il tricolore sventolò nel sole e in un impulso improvviso buttò via il martello. «Viva l'Italia!» gridò. Ma nello stesso istante un sobbalzo del pontone lo fece traballare. Reggendosi all'asta, Berto rideva. «Sono le onde degli incrociatori! Stai a vedere le barche in sacchetta, ma ecco, attento!» Ario ebbe appena il tempo di rizzarsi che il pontone si sollevò un'altra volta, quasi gonfiandosi sotto i suoi piedi, e si impennò. Sembrò restare qualche attimo sospeso, poi ricadde. Si udì, cupa, tutta l'onda che si frangeva e infine la schiaffata che alzò il fondo piatto ricadendo sull'acqua. E si udì insieme, nel momento in cui il galleggiante, quasi sbalzato in aria, era trattenuto da uno strattone, un cigolio teso di catene. «Guarda le barche!» urlava Berto. «Qualcuno affonda, vedrai!» Afferratosi alla balaustra, Ario cercò di portare lo sguardo alle imbarcazioni da diporto, tra il molo e le boe, ma vide soltanto una sarabanda di gusci con un oscillare impazzito di alberature. Poi tutto gli si confuse, mentre una massa enorme gli si ergeva davanti come portata da un vento, sollevandosi sinoltre il suo capo. Stentò a riconoscerla, pur distinguendo nel bianco e l'azzurro. Era il galleggiante di fronte, il suo pontone. Nell'attimo che restò sollevato, scorse in alto, incombente, quasi stesse per rovesciarglisi addosso, il tetto a terrazzo, anzi, a ponte di nave, di assi calafatate, e gli apparvero più sotto, sulla parete candida, le piccole finestre con le tendine gialle gonfie d'aria. Si alzava sull'acqua come una villetta mossa dal terremoto. Berto urlava qualcosa, di nuovo. «Eh?» fece Ario. Il pontone di fronte si riabbassò di schianto e quello su cui si trovavano ebbe invece un altro sobbalzo più alto e più lungo dei due primi, che destò lunghi scricchiolii. Di ciò che Berto gli urlava, gesticolando, riuscì a udire soltanto «La Maona!» Si volse a guardare ove gli indicava. «La Maona?» La grande chiatta da carbone cui s'erano avvicinati tante volte col caiccio, immersa com'era sin quasi alla coperta, minacciava d'attimo in attimo d'essere invasa dalle ondate e sommersa. Il mare le spumeggiava intorno e a tratti la si vedeva scendere paurosamente, con tutto il peso della stiva quasi al di sotto dell'acqua che sembrava lì lì per invaderla. Seguirono altre ondate, ma più basse e lente, sempre più blande e rade, e infine il mare si calmò. Nel mandracchio il sole rideva. Da ogni parte, in cima agli alberi dei veglieri, sventolava il tricolore. Bandiere e bandiere, e il bianco, il rosso e il verde si riflettevano sull'acqua tremolando e oscillando, e più in là sulla riva bandiere e drappi apparivano a ogni finestra. Dall'altra parte della sacchetta, tre rimorchiatori accostati l'uno all'altro, prima il più piccolo, poi il medio e infine il più grande, issavano il pavese con un'eleganza leggera e lieta che spiccava sui loro tozzi scafi da fatica. E il gran pavese sventolava in tutti i suoi colori, dall'uno all'altro albero di un piroscafo che faceva scalo alla banchina, sotto la lanterna. Dalla città giunse un suono di fanfara. I due ragazzi si volsero di scatto e corsero da quella parte sino al parapetto. «Sbarcano i marinai!» gridò Ario. «No, non ancora. Sbarcheranno poco prima della rivista. Suonano per accogliere gli incrociatori. Sono ormai giunti». Alte, sopra il tetto della pescheria, imponente come quello di una basilica, apparivano alcune fumate che si fondevano in un'unica, enorme, per poi disperdersi nell'aria. Più sotto, oltre alcuni moli, si distinguevano le coffe, le torri di comando e i fumaioli degli incrociatori, che stavano lentamente arretrando. «Che onda, eh?» fece Berto. «Pure nessuna barca. È affondata», esclamò tornando a guardare verso le imbarcazioni da diporto. Ario restò deluso. Gli rincresceva che non fosse accaduto nulla. Gli sarebbe piaciuto che una di quelle imbarcazioni bianche e agili dalle alte alberature, un panfilo magari, fosse affondata. Sarebbe rimasta fuor d'acqua, forse, soltanto la cima dell'alberetto. Che gioia e che orgasmo correre lì col caicio, i primi, e riconoscere in fondo lo scafo sommerso. Ma subito si riprese e fu contento che non fosse successo niente. Immaginava il malumore di sua madre e la sua ira si sarebbe sfogata al solito su di lui se fosse andata a picco, come era accaduto già una volta a causa le onde sollevate da due navi da guerra, qualcuna delle barche che ella aveva in custodia. «La Mahona, però», notò Berto, «la vedevo e non la vedevo». Sul terrazzo del pontone di fronte, che splendeva candido nel sole, rigato lievemente dai cornicioni blu, con tutte le finestre dei due piani, sei sotto piccole e quattro sopra, spalancate all'aria del mattino, comparve una donna alta e vigorosa. Si diresse risoluta e aveva qualcosa, un rotolo sotto l'ascella, verso la parte anteriore del terrazzo, dove la balaustra, ornata di cassette di gerani laccate di bianco, dava sulla sacchetta, proprio in faccia al quadrilatero delle barche da diporto. In quel punto del terrazzo si alzava, anziché una semplice asta da bandiera come sul pontone, ove si trovavano Ario e Berto, un'intera alberatura, col suo alberetto, i suoi pennoni e le sue sartie, priva soltanto della vela. Lì la donna si fermò e sciolse il rotolo. Era, vivo, sgargiante, tutto un pavese. Legatolo alla sagola, lo issò in cima all'albero. «Ecco tua madre!» aveva esclamato Berto. «Finalmente alza il pavese, se non c'era la fanfara!» Ario non rispose. Si era oscurato e guardava la donna. «Ma è sempre uguale», pensava. «Vuol fare tutto lei. Perché non ha voluto lasciarmi sale le bandiere dell'albero del nostro pontone, come Berto fa ogni volta qui sul suo?» «Oh, guarda! Eneo!» gridò tutto a un tratto Berto. «Ha rimorchiato in bacino quel transatlantico che abbiamo visto ieri e deve essere appena tornato. Eneo! Eneo!» si sforzò di chiamarlo portando le mani alla bocca. «Sai», si volse febbrilmente verso Ario, «che è diventato fuochista del Titanus? Me l'ha detto Lidia. E difatti guardalo, è già a bordo». Dall'altra parte della sacchetta, sulla coperta del più grande dei tre rimorchiatori, si vedeva muoversi indolente, a torso nudo, un giovane di complessione atletica. «Eneo! Eneo!» riprese a gridare Berto. «Ti sfiaterai, non lo conosci», mostrò di disinteressarsi Ario. «Ma che? A me risponde sempre». Ario si fece rosso. «Risponde anche a me», alzò la voce. «Ma quando è a bordo non risponde a nessuno, lo sai». «Dicono che si vergogna di essere vuochista». «Finché era sull'Empedocle, forse, ma ora che è sul Titanus, ora sarà lo stesso. Cosa vuoi che gliene freghi a uno come lui di un rimorchiatore più grosso? È fare il fuochista che non gli piace, per questo non risponde». Sul Titanus si vide riapparire vicino al boccaporto di prua quel torso nudo. «Eneo! Eneo!» ricominciò a chiamare Berto con slancio. Quasi nello stesso istante, quel torso scomparve. «Hai visto?» fece Ario. «Forse non mi ha udito», rispose Berto, mostrando di guardare altrove, e cacciandosi le mani in tasca, prese a fischiettare. «Che cosa vorrebbe fare, secondo te?» domandò, «invece del fuochista». «Il divo», rispose Ario. «Eh? Sì, l'attore del cine». Tacquero entrambi, e ogni tanto sbirciavano, senza farlo capire, verso il Titanus. «Il divo», esclamò Berto. «Ma tu», si voltò di colpo verso Ario, «come lo sai?» «Lo so», troncò Ario. «Mi ha detto», riprese a un tratto Berto, «che presto comincerà a allenarsi per i prossimi campionati». Ario si voltò, lo guardò in faccia. «Te l'ha detto? Lui?» «Sì», esitò Berto, «veramente si corresse subito, lo so, da Lidia». «Ma Lidia l'ha detto lui?» La brezza faceva sventolare le bandiere, ma il mandracchio in quel mattino di festa era svuotato, deserto. Di tratto in tratto giungeva dalla parte della pescheria, alle spalle dei ragazzi, un suono di banda. Ario guardava l'acqua, tra l'uno e l'altro galleggiante, e gli occhielli di luce che tremolavano alla superficie. A un certo punto fermò lo sguardo sotto di sé, sul ballatoio che correva tutto in giro al primo piano del pontone. Si vedevano lì sotto, discoste l'una dall'altra, due scarpette bianche da donna, di tela, pulite di fresco. Una era finita vicino alla parete candida del galleggiante e quasi vi si confondeva. L'altra, che mostrava tra la suola e il tomaio il vuoto di una scucitura, giaceva riversa ai piedi della balaustra. Guardandole, Ario si sentì crescere una leggera inquietudine. Le scarpette di Lidia. La fanciulla, dopo averci dato il bianco, doveva averle messe ad asciugare lì, al sole. Per un miracolo, durante i sobbalzi causati dalle onde degli incrociatori, quella della scucitura non era precipitata giù dal ballatoio, in mare. Ario continuava a guardarla e taceva. Sentiva di nuovo quasi un'ansia e scontentezza. «Ecco», pensava, «come ogni giorno si sono già dati appuntamento». Si accorse in quella che anche Berto guardava sul ballatoio. Doveva aver scorto le scarpette della sorella e taceva. Rimasero qualche istante così, senza dirsi nulla. Poi Berto, infilate le mani in tasca, cominciò a fischiettare. «Sei mai stato?» domandò con indifferenza muovendosi e volse lo sguardo al centro del mandracchio verso la Maona. «Nei cantieri dove lavora mio cugino? A vedere la nuova motonave?» «No, ma che conta?» stava per rispondere Ario. «Sei più piccola dei transatlantici che vediamo qui in porto». Allorché Berto ebbe un balzo. Gridava: «Che idea mi è venuta, che idea!» Ad Ario scintillarono le pupille. «Dimmela!» supplicò saltandogli intorno. «Ti prego, dimmela!» Ma Berto si era fatto serio. «Aspetta, taci», lo interruppe, «lasciami pensare». Infine si rianimò. «Sì, sì, che idea, dimmelo, ti prego», ricominciò a supplicarlo Ario. Per quella cosa che Berto tardava a dirgli, era come se avesse la febbre. Si udì, in quel momento, vicino, sulla riva, prima un trapestio unito e lento di zoccoli, come di un drappello di cavalli al passo. E poi uno scroscio di battimani. Da ogni parte accorreva gente, donne e monelli, verso quel punto. La strada deserta si era ad un tratto animata. «Il Duca!» gridò Berto, lanciando la balaustra su cui si era alzato per veder meglio. «Corri, corri! Tra poco comincia la rivista!» Scesero d'un fiato le scalette, attraversarono i ballatoi, saltarono oltre la passerella ed eccoli correre sul molo. Vedevano sparire e riapparire, in fondo, sopra la folla, le teste inquiete dei cavalli. «Eccolo, eccolo!» gridò Berto, che precedeva Ario. Una figura in giubba azzurra appariva davanti a tutti, staccandosi altissima, con un volto scarno e abbronzato d'africano, sul gruppo di cavalieri che l'accompagnava. Sorrideva portando la mano al berretto e il labbro prominente scopriva una forte dentatura bianca. Nella folla serpeggiò di nuovo un clamore di applausi. Ario sentì un brivido d'entusiasmo, una commozione mista a gioia e quasi a uno stimolo di piacere, e affrettò la corsa. Ma una voce di donna, forte, lo richiamò. «Ario! Ario!» Sentì in sé, di colpo, qualcosa oscurarsi, venir meno. Rallentò e in quell'istante vide la faccia di Berto, affannata, esaltata, volgersi verso di lui. «Fingi di non aver udito! Corri! Non essere stupido!» Sì, si sentiva stupido. Stupido e debole, ma non poteva. Non sapeva fare altrimenti. Aveva sempre obbedito, era come una forza più grande di lui. Anche adesso, malgrado l'impulso di ribellione che gli aveva infiammato il viso portandogli il sangue agli orecchi, il suo corpo rallentava, si fermava. «Vengo!» rispose alla donna. E nello stesso istante guardò con occhi disperati Berto, che entrava ormai tra la folla.